Dunque, intanto chiedersi, molti si chiedono perché si chiama Cabral, nessuno sa più chi era Cabral, voi sapete chi è Che Guevara, ma non Cabral. Cabral era quasi il Che Guevara dell'Africa, anche se non era dello stesso tipo, no? Di rivoluzionario. Perché il Centro Cabral è stato creato? È stato creato con l'approvazione di tutti i partiti, Comune di Bologna, dell'arco democratico. Camaradas e compatriotas, neste momento em que começamos o novo ano de vida e de luta e o nosso combate pela independência do nosso povo africano. Il centro Amílcar Cabral è una biblioteca, un luogo di studio, di riflessione e di dialogo. Ci parla di Africa, America Latina, Asia, ma soprattutto ci parla di pratiche di relazioni internazionali. Questo posto ha compiuto 50 anni e in questo podcast vi raccontiamo pensieri, emozioni e scintille che hanno dato origine nella Bologna degli anni 70 a un centro studi intitolato al leader rivoluzionario africano Amílcar Cabral. In una delle strade che porta verso i colli bolognesi ci si imbatte in un palazzo con bellissime vetrate circondato da alberi. Sembra una vecchia villa a guardia degli edifici sui colli della città, ma solcato il giardino si entra nella biblioteca Cabral di Bologna. Più che una villa, un biglietto per il giro del mondo. Comunque, la questione è che questi finestroni molto affascinanti in realtà tipo Effetto sono una serra. Però lastra infuocata. d'inverno è bello. No, certo. Un'architettura evidentemente non pensata per il cambiamento climatico, però. No. Per molti di noi è stato soprattutto una biblioteca, un luogo di dibattiti e iniziative culturali. Per chi è venuto prima di noi, un simbolo dell'apertura di Bologna verso le culture di altri paesi. E per chi è venuto ancora prima, il nodo tra le lotte anticoloniali e i venti di un possibile cambiamento. Nel 2024 il Centro Cabral compie 50 anni. Chi ha voluto un luogo che parlasse della cultura e della storia dell'Africa, dell'Asia e dell'America Latina? E perché proprio in nome di un rivoluzionario africano? Il Centro Cabral ci parla di lotta, di colonialismo, di punti di vista diversi. Ci invita a capovolgere le cartine e le mappe. Questo podcast vuole intrecciare le storie di coloro che negli anni 70 hanno voluto questo posto, i loro ideali e le loro passioni. Cosa vuol dire lavorare sulla storia di una biblioteca come il Cabral, con il suo sguardo rivolto altrove rispetto all'Europa, all'Occidente? Cosa vuol dire farlo dal punto di vista di persone bianche, occidentali? Cosa vuol dire farlo oggi? La nostra ricerca di significato è stata all'origine di domande ricorrenti come queste, di fronte alle quali, in una fase iniziale del lavoro, non sapevamo dare una risposta. Ci siamo dette, in fondo sarà la ricerca a darci queste risposte. Teniamo le domande come guida. Lo sguardo sul passato nel lavoro della ricerca storica si anima anche e soprattutto di domande che vengono dal nostro presente e come tale si aggiorna sempre alla luce delle nuove sensibilità che sviluppiamo. Da qui altre più stringenti domande. Come raccontare un luogo che è nato dall'internazionalismo, dalla consapevolezza che fosse necessario per un'amministrazione comunale dedicare uno spazio all'approfondimento, per far conoscere alla cittadinanza quanto stesse succedendo fuori dai confini di Bologna, dell'Italia, dell'Europa e dello scontro est-ovest che sembrava dominante? Qual è la differenza con un'epoca come la nostra, che sembra schiacciata in tanti piccoli individualismi ed identità locali? Pur vivendo in un mondo globalizzato, oggi è difficile parlare di internazionalismo. Si può avere a portata di clic qualunque informazione in tempo reale su ciò che succede in ogni angolo del globo, ma non abbiamo più l'idea forte che quello che può succedere in Congo o in Cambogia ci riguardi come persone che possa far parte di una battaglia politica importante per noi. Here at the University of Washington was filled with people for a Free Palestine rally. Now among the crowd were several Jewish students. L'anno in cui questo podcast prende vita è lo stesso in cui il Medio Oriente è tornato al centro del dibattito pubblico internazionale. Nuovi, sanguinosi episodi di una storia che va avanti da più di 70 anni, ma anche un rinnovato vento di solidarietà che ha accompagnato le immagini terrificanti dei TG. Il 2024 è infatti l'anno in cui il cosiddetto sud del mondo ha cercato un riscatto simbolico nella richiesta di un cessate il fuoco. Le tende all'università hanno ricordato a qualche commentatore le proteste per il Vietnam e noi ci siamo chieste se davvero sia rimasta una spinta internazionalista in questo mondo così complicato, fatto di frontiere feroci, leggi razziste, di suprematismo bianco e di nostalgie per paesi mitizzati. Il Cabral di Bologna ci dice: è stato possibile pensare in grande. Il 6 maggio 1975 viene ufficialmente inaugurato il Centro Studi Iniziative e Informazioni Amilcar Cabral, nella sede del Baraccano, presso l'allora quartiere Galvani, oggi Santo Stefano. Leggendo la delibera di fondazione, uno degli obiettivi del centro è essere un punto di riferimento per quanti studenti e studiosi italiani e stranieri si occupino di problemi internazionali con particolare riferimento ai paesi sottosviluppati. Ora, questo termine sottosviluppati non è invecchiato benissimo, ma si usava in quegli anni per indicare i paesi a basso reddito e quelli del sud globale. Il primo presidente del Cabral è il professor Salvatore Secchi. Il centro si apre con una conferenza dal titolo «Le ragioni storiche e sociali della lotta vittoriosa dei popoli indocinesi». La delibera approvata in Consiglio Comunale nel luglio di 2 anni prima parlava chiaro. Si costituisce il Centro Studi, Iniziative e Informazioni Amilcar Cabral, con sede in Bologna, in via Santo Stefano. Il centro assume il compito di sviluppare la conoscenza dei problemi inerenti ai paesi di nuova indipendenza o in lotta per la conquista della libertà e dell'indipendenza nazionale ed economica, proponendosi anche attraverso la partecipazione e l'attività degli studenti stranieri che risiedono a Bologna e delle loro associazioni democratiche e antiimperialiste, come momento di contatto per scambi culturali tra la cittadinanza e i paesi interessati, nonché la loro organizzazione in città. Proprio per raccontarci e darci un quadro dell'atmosfera di quegli anni, abbiamo intervistato Marica Tolomelli, professoressa di storia contemporanea all'Università di Bologna. Bologna negli anni 60 si trovava nella congiuntura anche nazionale di crescita e sviluppo economico, aumento della popolazione studentesca, incremento dell'università. È negli anni 60 ad esempio che a Bologna viene fondata la facoltà di scienze politiche, dove iniziano ad operare, diciamo, docenti, studiosi che con uno sguardo, diciamo, sulle relazioni internazionali e su anche appunto questi paesi emergenti, nuovi stati emergenti. Penso ad esempio alla figura di Gianni Sofri, che in quegli anni era docente di storia contemporanea, che sì, però aveva iniziato a interessarsi molto della storia dell'India, dell'Asia. Ricordo Carlo Poni, uno storico dell'economia, no? Ricordo Roberto Finzi, un altro storico, diciamo dalla parte della città, amministrazione comunale. In quegli anni, proprio fine anni 50, primi anni 60, no, fu istituito un assessorato per istituzioni culturali. Renato Zanger era assessore, no, alle istituzioni culturali per la città di Bologna. Dunque in questo contesto iniziano a svilupparsi, diciamo, delle sinergie virtuose, chiamiamole così, soprattutto, diciamo, nei rapporti tra università e città, una città governata da un partito comunista. Quindi sì, sono anche i docenti che vi ho citato, gli studiosi che vi ho citato, non erano, diciamo, necessariamente militanti nel partito comunista, ma comunque si muovevano, operavano, collaboravano con il dentro e fuori il partito, no? Quindi ecco, questa è la sinergia, diciamo, virtuosa, per cui è a partire dalla consapevolezza di alcuni studiosi, ricordo in particolare Roberto Finzi, che ha rilasciato un'intervista poi archiviata nei materiali, diciamo, della Fondazione Gramsci Emilia Romagna, ricordava questa volontà da parte sua, da parte dei colleghi Carlo Poni, Gianni Sofri, di stimolare la città a occuparsi anche di tematiche, di problemi relativi a questo nuovo mondo emergente, no? Questo cosiddetto terzo mondo, come era chiamato allora. Studiosi si rendevano conto che non c'erano gli strumenti scientifici, culturali per capire, no, cosa stava avvenendo, la decolonizzazione, per capire questo terzo mondo, e in università si stava muovendo qualcosa, ma grazie a questa rete di relazioni, questa, diciamo, collaborazione, scambio così intenso con l'amministrazione cittadina, un'amministrazione appunto comunista, no, anche la città viene coinvolta e il centro Cabral nasce da questa sinergia. Intanto molti si chiedono perché si chiama Cabral, nessuno sa più chi era Cabral, voi sapete chi è Che Guevara, ma non Cabral. Cabral era quasi il Che Guevara dell'Africa, anche se non era dello stesso tipo, no? Di rivoluzionario. Perché il centro Cabral è stato creato? È stato creato con l'approvazione di tutti i partiti Comune di Bologna, dell'arco democratico, come si chiamava allora, nel 1975. Ma quali sono i precedenti che hanno preparato questo? Nel dopoguerra c'è l'emergere del cosiddetto terzo mondo. In Italia era molto più conosciuta l'America Latina o l'Asia attraverso la questione del Vietnam. Abbiamo appena ascoltato Anna Maria Gentili, che ci accompagnerà per tutto il podcast, professoressa emerita dell'Università di Bologna e tra le massime esperte di studi sull'Africa, ma che qui ci parla proprio delle sue memorie come presidente del Centro Cabral dagli anni 80 ai 2000. Ma uno degli elementi per capire il rivoluzionario Cabral all'interno del contesto internazionale è partire dall'impero coloniale portoghese. L'impero coloniale portoghese era uno dei più antichi al mondo. Nato con le esplorazioni geografiche nel XV secolo, era rimasto a lungo una rete di piccole stazioni commerciali sparse sulle coste di mezzo mondo, da Hormuz a Macao, da Goa alle isole Molucche. Il cuore pulsante di quell'impero era il Brasile, frutto della spartizione del Sud America con gli odiati vicini spagnoli. Ma alla metà del Novecento, di quegli antichi fasti è rimasto ben poco. Alcune isole nell'Atlantico e nell'Oceano Indiano e alcuni territori in Africa. L'Angola, il Mozambico, la Guinea-Bissau e Capo Verde. Tuttavia, mentre tutti gli altri stati europei smantellano volenti o nolenti i loro imperi coloniali, il Portogallo rimane tenacemente avvinghiato ai resti del proprio. Il regime fascista di Antonio de Oliveira Salazar, timoroso che l'abbandono delle colonie possa generare malcontento fra gli industriali e i militari che ne garantiscono la sopravvivenza e ancora fiducioso nella superiorità dell'uomo bianco, ingaggia una guerra senza quartiere con i movimenti indipendentisti. Una guerra che solleva proteste in tutto il mondo e che vede una generazione di africani combattere ancora una volta per la propria libertà. Uno di loro, originario della Guinea-Bissau, si chiama Milcar López da Costa Cabral. Anna Maria Gentili diventa presidente del Centro Cabral negli anni in cui Renato Zangheri è sindaco di Bologna, dopo essere stato assessore alla cultura. Gli anni dei tre mandati di Zangheri sindaco, dal 1970 al 1983, sono gli anni del lungo 68 e delle grandi mobilitazioni collettive, gli anni dello Statuto dei Lavoratori, delle riforme e della conquista di tanti diritti e poi del movimento del 77. Furono anche anni di lotta armata, di terrorismo nero e di controrivoluzione. Qualcuno li chiama anni di piombo, altri stagione dei movimenti e poi gli anni 80, anni di riflusso. Questi anni, che corrispondono ai tre mandati di Zangheri sindaco, sono stati tutte queste cose insieme e Bologna era al centro di questi processi. Ma in che modo Anna Maria Gentili ha conosciuto il Centro Cabral e ne è diventata presidente? Il Cabral, quando è stato fondato, io ero qua a Bologna, non ero un professore ordinario, niente, ma siccome mi conoscevano perché avevo organizzato delle cose, d'altra parte il sindaco Zangheri era un professore universitario, quindi ci conoscevamo. Io l'avevo anche incontrato quando ero in Tanzania, che lui era venuto con una delegazione e andavano in Mozambico all'indipendenza. l'indipendenza nel 75, quindi perché il primo presidente del Cabral è stato il professor Salvatore Secchi, il secondo la Enrica Colotti Pischel, ma all'inizio i consiglieri non erano come sono adesso dei professori universitari, all'inizio erano i rappresentanti dei movimenti politici e di liberazione, quindi c'erano gli eritrei, i somali che si litigavano sempre, cioè i palestinesi. Era una situazione molto tesa perché si tendeva, cioè la nostra idea è la nostra. L'idea era che questo doveva diventare un centro di documentazione e conoscenza. Un altro testimone dell'epoca è Federico Castellucci, assessore al decentramento del comune di Bologna negli anni 70, dirigente del Partito Comunista. E lui ci spiega perché Amilcar Cabral è stato scelto come nome tutelare del centro. Appunto, perché lui era un esempio, secondo me, dei più lampanti, dei più ampi, che avevamo nel mondo della lotta al colonialismo. Tenete conto che lui aveva lottato nei paesi per la libertà, nel suo paese per la lotta alla libertà, era stato in galera, era stato torturato e ucciso per questo ideale, per questo, e quindi noi ritenemmo che era una figura importante non soltanto per Bologna o per l'Italia, era una figura importante per la lotta di liberazione che in quel momento era particolarmente vivace in diversi paesi del mondo. Partiamo da un luogo, l'Avenida Duque de Ávila, poco più di una stradina del quartiere Sanchi Cruz di Lisbona. Qualche palazzo storico in mezzo a complessi residenziali e uffici che poco hanno da dire a chi li visita. Qui si trovava la Casa dos Estudiantes do Imperio, una struttura che per decenni ha ospitato giovani donne e uomini provenienti da Africa, Macao, Timor-Leste e India, che per completare la propria formazione erano costretti a emigrare in quel Portogallo che all'epoca si presentava come la madre patria di un impero ancora vasto. Creata nel 1943, la Casa dos Estudiantes do Imperio doveva permettere all'Estado Novo, in nome del regime di Salazar, di creare fra i suoi sudditi coloniali un'elite lusofona capace di diffondere i valori della nazione e del salazarismo ad ogni latitudine e in ogni epoca. Peccato che la storia, come qualche volta capita, fa lo sgambetto. Grazie al contatto tra gli studenti delle colonie e quelle delle grandi città del Portogallo, anziché i valori dell'Estado Novo, la scuola dell'impero dissemina il marxismo, l'antiimperialismo e la democrazia. Proprio nelle sue aule si formano alcuni dei maggiori protagonisti delle lotte anticoloniali, come Agostinho Neto dell'Angola, Marcelino dos Santos del Mozambico e Amilcar Cabral da Capoverde. Cabral arriva in Portogallo nel 1945, a 21 anni. Nelle foto dell'epoca assomiglia a tutti gli studenti degli anni 40, in giacca e cravatta e lo sguardo già molto adulto dentro gli occhiali che diventeranno poi iconici. Il padre, che abbandona presto moglie e figli, è un maestro elementare e la madre, Iva Pignel Evora, la figura genitoriale più presente nella sua vita, è un'operaia della lavorazione del pesce che integra il magro salario lavando i panni dei soldati portoghesi. I colonialisti hanno l'abitudine di dire che sono stati loro a farci entrare nella storia. Oggi dimostreremo che non è così. Ci hanno portato fuori dalla storia, dalla nostra storia, per seguirli sul loro treno, all'ultimo posto, sul treno della loro storia. Alla scuola di agraria, Amilcar Cabral supera un esame dopo l'altro. Ma non è solo lo studio ad animare questi anni universitari. C'è l'amore con Maria Elena, una studentessa portoghese che diventerà sua compagna di lotta e poi sua moglie, ma c'è anche la scoperta della lotta politica, grazie al contatto con gli studenti del Partito Comunista Portoghese e del Movimento di Unità Democratica. Come dirà 20 anni dopo, durante un seminario per quadri rivoluzionari, ho visto gente morire di fame a Capoverde, capite? Questo è il motivo della mia rivolta. Questo è il motivo fondamentale per cui mi sono ribellato. Questa necessità lo porta, assieme ai suoi amici Agostinho Neto e Marcelino dos Santos, a fondare il Centro Studi Africani, uno spazio in cui discutere dei problemi dell'Africa in termini marxisti e dove leggere e diffondere l'opera delle voci culturali africane. A folgorarlo sono in particolare le poesie del poeta senegalese Léopold Senghor, che parlano di risveglio dell'uomo nero. Ovviamente l'attivismo di Cabral e dei suoi compagni non passa inosservata alla PIDE, la Polizia Internazionale e G-Defensa do Estado, l'onnipresente polizia politica portoghese che dal 1950 apre un fascicolo a suo carico. La PIDE lo segue anche nei viaggi che compie in quegli anni. Nell'Alentejo, la vasta regione agricola nella quale Cabral studia per la sua tesi sull'impoverimento del suolo in relazione al capitalismo, e anche quando torna in Guinea-Bissau nel 1952 per fare un primo censimento agricolo della colonia. Per la polizia è un soggetto da controllare. È da tempo oramai che il dottor Cabral ha iniziato a parlare di indipendenza africana e a sostenere che la lotta armata contro la potenza coloniale portoghese è uno dei mezzi a cui occorre far ricorso per ottenere la libertà. The job of progressives and revolutionaries everywhere is to hasten the death of imperialism. 50 anni oltre i confini è una serie podcast realizzata da Radio Vallun per Biblioteca Amilcar Cabral, settore biblioteche e welfare culturale del Comune di Bologna. Nel 2024 il centro compie 50 anni e celebriamo il centenario della nascita di Amilcar Cabral. Potete riascoltare le puntate su tutte le piattaforme e sui siti bibliotecaamilcarcabral.it e su radiovallun.info. Fonti e bibliografia in sinossi.